in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, l'ultimo sabato di ottobre, e se n'è andato anche ottobre. Scusate, sono un po' ossessionata dal passare del tempo, adoro i calendari, anche se poi appunto mi ricordano l'inesorabile passare del tempo. Fatta questa piccola digressione, comincio questa settimana dalla vicenda di Malta. Saprete tutti, avrete sentito di questo omicidio, che forse a qualcuno ricorda stagioni in Italia in cui succedeva anche da noi, o per terrorismo rosso, di matrice rossa, di matrice nera, o naturalmente per mafia, succedevano questi attentati in cui le vittime venivano fatte esplodere all'interno delle loro auto. È successo a Malta ed è successo a una giornalista, e da qui l'editoriale apparso sul Malta Independent, tradotto da Internazionale, che si intitola Un giorno nero per Malta. L'omicidio di questa giornalista, vi ricordo, si chiamava Daphne Caruana Galizia, è stato il 16 di ottobre. E scrive il Malta Independent: l'omicidio di Daphne Caruana Galizia era stato annunciato. 11 anni fa avevano cercato di bruciarle la casa. Fortunatamente era sopravvissuta e si era dedicata con ancora più determinazione alle sue indagini. Ora quello che era stato previsto, minacciato e desiderato è successo. C'è una sorta di inevitabilità in tutto questo. Il delitto fa sembrare Malta uno dei paesi dell'America Latina dove i giornalisti vengono rapiti, uccisi o semplicemente fatti sparire. O, attenzione, una terra mafiosa come la vicina Sicilia. Ecco, a proposito di questo, cioè di quanto in realtà possa essere rischioso se si fa un lavoro di inchiesta che tocca interessi, soprattutto interessi criminali, quanto possa essere rischioso anche fare il giornalista in Europa, di questo si occupa Vox Europe insieme alla European Data Journalism Network. Trovate questo articolo sull'home page di voxeurope.eu e si intitola L'Europa non è così sicura per i giornalisti. E vi leggo la prima parte: anche se i giornalisti lavorano in un ambiente relativamente sicuro in Europa e soprattutto nei paesi dell'Unione Europea, a volte rischiano la vita, come dimostra il recente assassinio della giornalista anticorruzione maltese Daphne Caruana Galizia. E sapete, era giovane perché aveva 53 anni, 3 figli, era sicuramente una delle giornaliste più famose ed era conduceva proprio la sua missione. Molti di noi si occupano di temi molto più leggeri, io ad esempio seguo l'economia della moda, e di questo appunto vengo tacciata di essere di coprire temi leggeri, anche se ricordo sempre che in realtà qui al Sole 24 Ore seguiamo soprattutto l'economia della moda, quindi il secondo settore industriale italiano, ma sicuramente non è come occuparsi appunto di criminalità organizzata, di corruzione e di tanti altri filoni di illegalità che magari possono addirittura appunto costare la vita. Torniamo un attimo su Internazionale, perché c'è un altro paese, e anche qui spiace sempre che forse, quando va bene, queste notizie arrivino nel giorno in cui i fatti si verificano e poi magari se ne parli un pochino in quelli successivi e poi fine. E un attentato che all'inizio, perché poi le notizie in questo caso arrivano veramente a singhiozzo, all'inizio sembravano 30 morti e poi in realtà sono arrivati a 300. Parlo dell'attentato che ha colpito Mogadiscio, la capitale della Somalia, alla metà di ottobre, e ripeto, io mi ricordo i primi lanci di agenzia, 30 morti, e appunto alla fine è stato 300. E in questo caso Internazionale traduce un articolo apparso su un quotidiano indiano, The Hindu, che si intitola In Somalia torna la paura. Vi leggo anche qui la prima parte: l'attentato che il 14 ottobre ha ucciso quasi 300 persone a Mogadiscio è stato il più grave della storia della Somalia. La capitale ha subito diversi attacchi da parte del gruppo terroristico Al-Shabaab, che negli ultimi anni sembrava però indebolito. L'organizzazione jihadista non ha ancora rivendicato l'attentato, probabilmente perché i morti sono stati molti più del previsto. Ma se si trattasse davvero di un'azione di Al-Shabaab, sarebbe il segno di una preoccupante inversione di tendenza. E l'ultima parte riguarda la situazione politica interna della Somalia. A febbraio il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Farmaio, è stato eletto dai deputati con il voto indiretto. La guerra civile ha impedito che si tenessero elezioni a suffragio universale, ma il presidente gode di una buona fama tra i somali. Ora è fondamentale che sfrutti al meglio questo buon inizio. La Somalia è veramente un paese senza pace, perché se pensate appunto a Mogadiscio e magari anche da noi, da bravi occidentali, abbiamo vissuto un po' quella guerra anche attraverso i film. Ricordo per esempio quello molto bello di Ridley Scott, Black Hawk Down, che fa capire appunto come sia una terra non ancora rapacificata. E tra l'altro, se appunto questa componente di terrorismo jihadista rialza la testa, naturalmente non è una buona notizia per nessuno. Ma passiamo ad altri argomenti e in questo caso vi porto in Francia perché Le Monde, il quotidiano Le Monde, ha avuto questa anticipazione, o comunque poi in realtà è un po' tutto da dimostrare perché reazioni ufficiali ce ne sono molto poche per ora, però secondo Le Monde, Fiat Chrysler Automobiles, cioè FCA, l'ex Fiat e ora questo conglomerato guidato da Marchionne, che appunto è il risultato della fusione con il colosso americano Chrysler, è accusata di aver ostacolato l'inchiesta francese sul Dieselgate, il famoso scandalo che in realtà era partito in Germania nel 2015 e di cui era stato maggiormente coinvolto il gruppo Volkswagen. La casa automobilistica, secondo appunto Le Monde, è stata accusata di reticenza nel collaborare con i servizi della repressione delle frodi fra il maggio 2006 e il gennaio 2017. Passiamo invece, ma restiamo in un certo senso in Italia, perché El País ha ospitato una lunga intervista a Matteo Renzi, il presidente del PD, che ha parlato prendendo spunto anche dalle imminenti dal referendum che c'è stato domenica per l'autonomia, per una maggiore autonomia di Lombardia e Veneto. Naturalmente la questione di Barcellona, tutt'altro di Barcellona e della Catalogna, tutt'altro che risolta, e così ha detto a El País Matteo Renzi, l'Italia è diventata più antieuropea e ha al suo interno forze populiste che Renzi ha definito molto pericolose. L'Italia è un paese più antieuropeo perché l'Europa si vede molto lontana dai processi decisionali. Questo è un po' quello che si dice sempre, no? Che quando si critica l'Unione Europea e le sue torri d'avorio di Bruxelles, dove ha sede la Commissione, o di Francoforte, dove ha sede la BCE, o ancora del secondo Parlamento di Lussemburgo, si pensa appunto che siano tutti molto lontani, benché poi tutti i parlamentari siano stati eletti direttamente dai cittadini dei rispettivi paesi. Quindi effettivamente c'è un po' un paradosso e sicuramente si spera che le tanto auspicate riforme della struttura dell'Unione Europea vengano fatte. E poi una notizia sempre che riguarda un po' l'Italia, che è curiosa se volete, perché non credo che sarebbe immaginabile fare una classifica del genere in Italia per tutti i pregiudizi che ancora qui ci sono, addirittura che a volte sfociano o proprio nella mancanza di rispetto da una parte o dall'altra nello scherno o ancora dal considerare questo argomento tabù. Di cosa parliamo? Della comunità LGBT e Financial Times, quindi non un tabloid, non un giornalino qualsiasi, Financial Times ha pubblicato questa classifica mondiale dei personaggi LGBT più influenti al mondo e al quarto posto c'è un italiano, Antonio Zappulla, 38 anni, è originario di Acireale, vicino a Catania, ed è nella categoria settore pubblico, terzo settore, è appunto al quarto posto. LGBT naturalmente sta per gay, lesbiche, trans, gender, e il suo ruolo è lui guida la fondazione della Thomson Reuters, che è uno dei più grandi conglomerati dei media al mondo, e è stato anche intervistato, ha detto essere in questa lista è per me una soddisfazione personale per il lavoro svolto durante questi anni. Sicuramente la cosa più importante è l'esistenza stessa della lista. Su questo naturalmente si potrebbero avere opinioni diverse perché il fatto stesso di dover compilare una lista non delle persone più influenti al mondo, ma delle persone LGBT più influenti, qualcuno potrebbe pensare, forse anch'io ho questo dubbio, che sia un'ulteriore discriminazione. Un'ultimissima segnalazione da un giornale dall'Economist, sapete, uno dei miei giornali preferiti. Anche in questo caso la possiamo leggere tradotta grazie a Internazionale, è una notizia di divulgazione scientifica e riguarda quella collisione stellare a cui abbiamo assistito, non tutti noi, ma i fortunati astronomi che hanno potuto assistere a questa collisione qualche settimana fa, perché per la prima volta i telescopi hanno osservato una fonte di onde gravitazionali mentre venivano captate. Per molti si apre così una nuova stagione dell'astronomia ed è sempre, insomma, affascinante immaginarci viaggiatori nello spazio, prima o poi. Probabilmente io non lo vedrò, forse i miei nipoti, ma intanto è bello un po' sognare, e non sui libri di fantascienza, ma appunto sulle notizie di cronaca scientifica. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.